e chino d'amore. Oh, viva viva, nostro signore. Spettacolo Ballare di lavoro, storia di migrazione, di Renata Ciaravino, con Veronica Cruciani e Silvia Gallerano. Lo spettacolo Primo amore, di Letizia Russo, con Laura Nardi. Sarà che ancora chiudono il sabato i negozi. Sarà che il sole è lo stesso, la stessa aria. Vedremo. In orario sull'arrivo ho superato tutti i pezzi di terra che devo conoscere e che non mi ricordo mai. Solo gli ultimi 300-400 metri, quelli sì, me li ricordo, eccoli qua, li riconosco. Tanti anni non ho chiesto più niente a nessuno. Com'era, com'è? Passarci per caso, quante volte? 3-4 alla stazione però e basta. Che pure lei cambiare. Giusto toilette invece di cessi, giusto quello, sennò è uguale, sempre uguale. E se qualcuno scendeva proprio là lo guardavo, dicevo, sarà uno che conosco. Sarà uno che non conosco, sarà. Oppure guarda quella, sembra parente della parente della parente di quella con gli occhi storti che al cimitero la foto c'ha gli occhiali scuri per il pudore. Se qualcuno scende proprio là io lo guardo. Dai, confessalo, ci volevi tornare, erano anni che ci volevi tornare. Non mi pare proprio. E poi io guardo tutti quelli che scendono a tutte le stazioni. E poi scusa su, come se non mi conosci, come se non sei me. Io no, tornare là mai, ma quando mai? E poi perché? Nessuno da rivedere, niente da curare. I miei si sono fatti seppellire vicino a dove vivo, perché lo sapevano che là tornarci, no sul serio mai, manco sarà solo per il 2 novembre. Allora il biglietto ieri perché? Entrato alla stazione, detto seconda classe, rapido, pagato, salutato, andato via perché? È una gita e basta. Non le vedi le mie scarpe da ginnastica? È una gita. Voglio sapere se chiudono ancora il sabato i negozi. Voglio sapere se il sole è lo stesso, la stessa aria. Sentire che non ci sta niente da fare, l'immobilità. Questo mi manca, mi è mancato ogni tanto, solo ogni tanto. Non tanto che non ci sta niente da fare, perché io che vuoi che faccia? 12 ore al giorno, se va bene, torno a casa, è sempre notte. Niente sorprese, no, da quando è morto pure l'ultimo parente. Siamo rimasti io, una stanza, una cucina. E concentrarsi 12 ore al giorno, attento a non schiacciarmi le mani, bruciarmi, tagliarmi, morire. Non è questo che mi manca. Sentire che non ci sta niente da fare, no. Però l'immobilità, capito? Non so manco più dire che cosa è. Che io là non ho mai rubato, mai ammazzato, mai scassinato. E ci sono certi giorni che sto così bene, così in pace, che se ci penso dico perché, che sarà successo per farmi scappare via. Che poi scappare no. Bisogna parlare le parole giuste. Andare via, girare i tacchi, andare... Ci credi? Certi giorni mi chiedo cosa. Certo chi, ma soprattutto cosa per farmi scappare, anzi andare via. Poi mi sembra di ricordare qualcosa. Lontano. Però non lo capisco più. Mi pare un sogno. No, un sogno no. Un ricordo dei 2 anni, massimo 3. Però non lo capisco più. Non mi capisco più. Attirei upau gattutu, masu gattutu, non murreo eu, donna scicca, admiro stesse, peluberro che ho gatto deo eu. Questa pausa al cesso, anzi toilette ci voleva. Pisciare è una di quelle cose che la metto magari al primo posto, no, ma al terzo, quarto sì, delle cose belle. E poi mi piace la luce elettrica. Pure se questo sole qua fuori adesso era quello che cercavo. Insomma, sole di qui, come sei? Come stai? Bene, no? Mi pare bene. Invecchiato non mi sembri, sostituito manco. E queste case nuove. Adesso esiste pure la periferia. Che brutto. È diventato brutto, di quel brutto che uno che ci cresce non lo sa, lo vede solo chi ci arriva. Sinceramente, non si sta male io dall'altra parte. Non è brutto come qua. Non è bello, ma manco brutto come qua. Vuoi mettere? Torno a casa, io, la stanza, la cucina e fuori i lampioni gialli. Saluto quello dei giornali sotto. Se non sto da solo, sto con uno, faccio il giro dietro, il giorno dopo compro il giornale, vuoi mettere? Davanti a casa mia, dei miei, non lo so, mia, non lo so se ci voglio passare, ma hanno detto che l'hanno buttata giù, che loro l'hanno fatta buttare giù e poi con le valigie se ne sono andati all'ospedale. A morire. Pure se i medici gli dicevano che erano sani, che non ci avevano niente, loro sono andati là con le valigie e sono morti. Quasi lo stesso giorno, quasi la stessa ora. Questo non mi capitava da anni. Ho cambiato strada, c'era un gruppo, ho cambiato strada. Non mi capitava da anni pensare che mi potevano riconoscere. Anni che non mi capitava. Che poi non so manco se mi hanno guardato sul serio. Io mi conosco, lo so, non mi conosco benissimo, ma ci sono cose che so. Quegli occhi. Occhi come quelli per una vita. Sia che mi guardavano sul serio, sia che me li inventavo io, finiva come? Che mi chiudevo in casa, ecco come. Che mi facevo muto, cieco, sordo a me stesso e che aspettavo che finiva la vita a far finta che ci capitavo sempre per caso nel buio, nei denti di qualcuno. Così finiva e io lo so. Mi conosco, non benissimo, ma mi conosco. E certe volte mi piacerebbe incontrare quel me di tanti anni fa. Incontrare quel quindicenne che passava inosservato e dirgli bravo! Non lo so proprio come hai fatto, però bravo! M'hai salvato! Mi siedo qua, in questo bar. Questi 2 seduti e 2 bicchieri vuoti. Le carte nere per le dita grasse. Piegate come le tegole, quel mazzo deve avere l'età mia. Quei 2 l'età di mio padre, se ancora stava vivo. Mi siedo qua in questo bar rinnovato, il posto perfetto per me, perché mi piace la luce elettrica che non fa finta di essere sole. E poi la sedia è comoda, il tavolo alto, non traballa, chiederò un caffè, scusi. Quando ero giovane me la prendevo, mi offendevo perché passavo inosservato. I 2 continuano a giocare. Il cameriere che fa? Di spalle pulisce qualcosa. Sembra che sta di spalle perché si vergogna. Sfregare, sfregare le cose. È di quelli che si nascondono nel grasso. È il proprietario. È un cameriere e basta. Tossisco? Non si gira. Muovo la sedia. Pensa che sono quei 2, non si gira. Ehi! Niente. Ci sono abituato a passare inosservato, ma qua è diverso. Qua è una questione di... Sei girato. Fa finta che non si era accorto. Esce dal banco, si avvicina. Buongiorno. E lui sei tu? Buongiorno. E lui sei tu? Tu proprio. Potevo venire qua per cercarti e non trovarti mai. È lui proprio. Gli occhi mi pare di sì. Che cosa vuole? Non lo so. Possibile è lui. Non è andato via. E io che guardavo i primi tempi nell'altra città, guardavo se per caso dietro un angolo la sera, pensavo che se n'era andato pure lui, ero sicuro, invece eccolo. Vuole bere, mangiare, insomma sì, abbiamo panini, non mi vede, pasta, pastarelle, cioccolato, birre nazionali, internazionali, insomma sì, tutto, un caffè, dico. E poi dico il suo nome e lui mi guarda. Come stai? Dico. Bene. Sono morti i tuoi, voglio chiedergli, invece silenzio. Sono morti i tuoi, ti ricordi di me, ti ricordi, noi, te lo ricordi. Voglio chiedergli, invece silenzio. Tanti anni fa, spero che i tuoi sono morti, spero proprio che sono morti. Un caffè, invece, dico, non mi ha manco chiesto come sto. Si volta la sua tana di grasso con dentro lui e va cameriere dietro al bancone ancora di spalle. Possibile eri tu? Come? Era cominciato come? Quando correva e tutto era chiaro, te lo ricordi? I miei silenziosi lavoravano la terra e sorridevano. Io non sapevo niente, vivevo, dormivo, mangiavo, piangevo e tutto era chiaro. Come è iniziato tutto? Come? Sfrega e ricorda. I miei lavoravano, io correvo, tutto era uguale, tutto era chiaro, i negozi chiusi il sabato, solo dentro un altro, te lo ricordi? Sudore, peli, primi peli, il primo sperma, il primo sogno. Che cos'era quella mattina? Che ore erano? Che giorno e che cielo fuori? Scuola, sì, scuola, banchi, poco altro, sedie e sigarette. Indovinavo sempre la pioggia, sapevo riconoscerne l'odore. Scuola prigione, negli intervalli camminavo dentro. Mi piaceva la luce elettrica, classe altra. Passi pesantezza, camminare classe persone, banchi sigarette. Tu, i passi, quei passi che ho fatto. Tremavano e pesavano, che non sapevo quei passi che ho fatto quando il mio corpo me l'ha detto. Quando il mio corpo mi ha detto come un grido, con un grido io mi ha detto sono vivo. No, non ti avevo mai visto prima, mai visto pure mai guardato. No, mai, mai. Avevi una maglia grigia. Un giorno mi avevano parlato di Dio, io distratto, ascoltato, ho sorriso, buon educato, ringraziato, me ne sono tornato a giocare. Era Dio quello, Dio o più, quello che ti stava seduto davanti e ti guardava e ti ascoltava. Tu, davanti a Dio, tu facevi Dio chi ti stava davanti, tu che gli brillavi addosso e lui che specchio si faceva Dio. E tu ridevi. E ridevi di me. Che avevo 15 anni e tu 15. Tu, anche tu, con le unghie sporche come le mie. Tu, anche tu, annoiato, onnipotente come me, seduto davanti a uno, l'hai guardato, gli hai parlato. Dei quattro a scuola, del pallone, del niente, l'hai fatto, Dio. E io coi miei occhi l'ho guardato. E tu ridevi. E ridevi senza saperlo di me, tu. 15 anni come me, nato come io, nato dove io, tu? Come me, uguale a me, uguale pure Dio, tu. Uguale a me, maschio come me, quando ti ho guardato, quando mi hai guardato. Muto, spento, morto io. Se non era per quel fuoco sotto piano, invisibile, ridicolo, ridicolo, sì, con le orecchie in fiamme a dirmi svieni, la lingua una lumaca e fuori all'improvviso notte. Che cos'era quello, cosa? Avevo visto Dio, uguale uguale a me, 15 anni come me, occhi neri. Un Dio che prendeva 4 a scuola, che giocava col pallone, difesa, non attacco. Un dio che beveva acqua e poi ruttava serio. Un dio che sulla faccia ha la novità dei peli e le gambe storte. E i capezzoli nudi d'estate e il sudore lungo i fianchi. Forte! Pacche sulle spalle amicizie. Nemici pure. Particolare coraggio no, non ce l'avevi, Dio. Menavi se era più piccolo di te, lasciavi perdere se era più grande. Risparmio di energie, dicevi. Particolare coraggio no, non ce l'avevi. Dio quindicenne che parla dialetto non sa scrivere. Dio quindicenne, io ti immaginavo. Dormire, di notte tu dormivi e io ti immaginavo. Dormire, ti immaginavo gli occhi semiaperti, il letto piccolo, ormai, e i sogni che facevi, che sognavi, Dio, che sognavi? Altri mondi, altre vite, la tua vita futura, di che sognavi, Dio? Sognavi il mare, sognavi di nascere, di morire, sognavi di cadere, non arrivare mai in fondo, di dare un salto e volare 10 metri, e poi ti chiedevi come mai che quel potere non lo usavi la mattina per andare a scuola, per alzarti più tardi e arrivare in tempo uguale. Io dormire neanche dormivo più, però c'era armonia tra me e il mondo, c'era armonia tra me e l'aria. Io ti immaginavo dormire e poi ti immaginavo seduto su un fiore, sì, ti immaginavo seduto su un fiore chiamarmi. Sorridevi, gambe storte, peli nuovi, unghie rotte. Immaginavo le tue braccia stendersi, le tue spalle. Immaginavo la tua schiena. Immaginavo di guardare la tua schiena e tu non lo sapevi. Però soprattutto ti immaginavo dormire. Ti immaginavo abbracciare il cuscino, cercare l'angolo del letto, ti immaginavo addormentarti. C'era armonia. Poi la pace si è rotta. Fino alle mie mani addosso a te. In quello spazio che c'era tra noi, in quello spazio vuoto, tra le mie mani e te, tra le tue me, ho capito che c'erano, ci sono cose che non sapevo, ho capito che c'erano, ci sono tante cose che non sapevo, o magari le sapevo, non le capivo, non le sapevo chiamare, non le chiamavo, però le sapevo, coi polmoni le sapevo, con le gambe, coi tremori, coi pugni chiusi le sapevo, così, col corpo, e non ero che quello, corpo. Ti pregavo, sai? Dicevo, Dio dei 15 anni prego di non vederti mai a 20, né a 30 né a 40. Dio dei 15 anni tu, almeno tu, resta così se puoi. Ti pregavo, capito? Io a te ti pregavo, ti chiedevo di non farti mai vedere, né a 20, né a 30, né a 40 anni, e facevo bene a pregare. Guarda, guardati, guardati come facevo bene, guardati. Voglio venire là mentre sei girato, aprirti col coltello, frugare, nascondermi nel rumore della macchina del caffè, tagliarti, aprirti, frugare, riprendere, salvare quel Dio che conoscevo a 15 anni io e lui 15. Potevi restare così com'eri, restare, capito? Restare. Ti dico pure come, pure quando. Così com'eri in quei mesi, tra quella mattina e quel pomeriggio, tra la scuola e la stanza, fermo così, fermo, immobile, fermo dentro i miei occhi. Non te l'ho chiesto e non te lo chiederò mai più, perché mi hai parlato quel pomeriggio che pioveva. No, c'era il sole o il vento. Era tardi o presto, quella volta mi hai parlato. E io ho detto sì, va bene, andiamo a casa tua, sì, va bene, un film, un gioco, un bicchiere di qualcosa, va bene, maschio tu, maschio io, va bene, perché no? Ero sicuro dentro, sicuro, ti ho solo chiesto se avevi dormito, e tu sì, dormito sì, Ma la domenica è meglio, la domenica dormo sul serio. Ero sicuro dentro, sicuro che non sapevi, sicuro che non sapevi, che non vedevi. E allora sì, va bene. Raccogliere informazioni, il quadrato della stanza e il letto alla parete sotto la finestra, raccogliere informazioni, raccoglierle tutte per tornare a casa di notte, immaginare tu seduto sul fiore, tu che ti alzi dal fiore, mi vieni vicino addosso e... tu mi hai toccato? Così, per errore. Film, giochi, bicchieri d'acqua, mi hai toccato un'altra volta. La gamba, e adesso conto i centimetri. Tra la mia gamba e la tua non più di 3. Tra le mie mani e le tue poco più di 10. Allora io ho provocato un errore, ti ho toccato. Sono stato io, sei stato tu, ho visto i tuoi occhi solo un attimo, però me lo ricordo il tuo volto, una palla di cannone contro la mia violenta, labbra aperte, denti, denti, denti, dolore, lingua, denti, respiri, respiri, denti, sangue, io e te all'improvviso in piedi al muro condannati, e io e te tutto cadeva, tutto precipitava, ero stato io, eri stato tu, perché l'hai fatto, perché non mi hai detto di no, in piedi due condannati, denti, respiri, mani, affogavamo nei vestiti, te l'ho strappati coi denti, bottoni cadevano, avevo le mani fredde, bottoni cadevano contro il muro, due condannati, non c'era altro spazio, non c'era per noi, in piedi al muro, non c'era altro spazio nel mondo per noi, non c'era, due condannati alla parete, morsi alle orecchie, io non sapevo dove, non sapevo cosa né come, io avevo il tuo corpo tra le braccia, il corpo di uno come me, e tu, manco tu sapevi cosa e come, ti ho graffiato, mi hai morso, ho cercato di comandarti, mi hai ubbidito, hai parlato, forse hai detto, non lo so più, denti bestie, graffi noi liberi, in una mattina tonella, forse due noi liberi, in piedi al muro, condannati, lottavamo e non ci guardavamo, non sapevamo cosa né come, ridere era il pericolo, ridere uno dell'altro, non era tornare indietro il pericolo, era ridere, tornare indietro no, ormai dove, indietro dove, il mondo è precipitato ed è rimasta solo questa mattonella. Cosa mi resterà addosso? Come? Dirà il mio corpo come? Lo dirà al mondo, guardami! Gridavo dentro, tu lo sai che cosa stai facendo, perché io non lo so, Dio, non lo so, eppure c'era una fine sola a tutto questo, una sola, chi? Chi dei due? Io tu, Dio dei 15 anni, chi? Non ti voglio ferire, aspetto, non ti voglio ferire, non ti voglio domandare, devi essere tu devi essere, decidi, Dio, il mondo è precipitato ma non fa niente, decidi adesso, che le mie mani in mezzo alle tue, i miei denti sbattono coi tuoi, hai il sangue sul collo, io ce l'ho sui denti, bisognerà raccogliere i bottoni dopo, bisognerà raccogliere i bottoni e le magliette strappate da buttare, che cosa racconteremo? Che siamo stati uomini, che abbiamo litigato, che abbiamo lottato coi cani, cosa? Hai stretto la mia mano forte. Ho capito. Ho fatto quello che volevi allora. Che volevi senza sapere cosa. Io l'ho fatto. Per te. Ho guardato la tua schiena. Non hai detto niente. Non hai respirato, non hai urlato. Che cos'era di più? Vedere te, sentire me, che cos'era di più? Cosa? Non più una parola, non più una, quel pomeriggio tutto vero, tutto successo, bicchieri d'acqua, bottoni ricuciti. Quanti mesi sono passati poi? Quante ore, quanti bicchieri, quanti giochi, quanti film, quanti giorni a passare mentre noi ci condannavamo. Dovrei usare il rumore della macchina del caffè per venire, tagliarti, frugare, ritrovarti. Tu lo usi, lo stai usando per non pensare, per non ricordare, invece ascolta, ascoltati. Te lo ricordi? Chiaro che te lo ricordi, chiaro. Che cos'era quello a 15 anni? Niente, dici tu, lo so, niente dici, però non lo pensi. E quella era casa tua e eri tu. Hai capito? Girati, ascoltami. Eri tu che mi dicevi vieni, che facevi sempre finta il gioco, sì, la televisione. Girati, ascoltami, ricorda. Quanti mesi che ci mangiavamo, quanti? Non lo so manco io. Tu dici che non era niente. Sì, magari non era niente, però avevi imparato tu, avevo imparato io. Entrare dentro piano pure forte. Tutto sapevamo usare, lingua, dita, cazzo, tutto. L'amore addirittura, tutto. E coi mesi, coi pomeriggi, col sudore, eravamo diventati adulti. Fino a che quel giorno, quel pomeriggio, casa tua, ci stavo io dentro di te, avevi anche imparato a respirare forte, eppure io, poi però, una lama di luce, due occhi, sei inciampato nei pantaloni, qualcuno è entrato, ci ha visto. Qualcuno che tornava dal lavoro, qualcuno che certe volte mi aveva pure sorriso, qualcuno che sbagliava il mio nome e io sorridevo perché ero innocente. E tu sei inciampato nei pantaloni? Allora io ho fatto finta di lottare, ancora ci ho provato a fare finta che era lotta, che eravamo uomini come volevano, un graffio, una spinta, ancora un sorriso. Credeteci dai, credeteci, uomini come volevate, uomini alla maniera che volevate, credeteci dai, che vi cambia? Poi la porta si è chiusa, sbattuta, e tu mi hai guardato, e tu te ne sei andato. E allora anch'io, quella non era casa mia. E tu mi hai guardato e te ne sei andato. Ti dovevo ammazzare. Ti dovevo ammazzare quel pomeriggio, come una bestia ti dovevo ammazzare. Appena aperta la porta, strapparti la carne con le mani, guardarti morire per salvarti, ti dovevo ammazzare. L'ho sognato. L'ho sognato quando sono tornata a casa quella sera. Ho sognato tu, seduto ancora sul tuo fiore, che ti alzi come sempre e io ti ho ammazzato. Abbiamo ballato, la tua testa sulla mia spalla, sui tuoi capelli, lacrime mie, baci miei. Eri leggero, muto, morto. Eri lontano, occhi chiusi, ballavamo. Poi arrivavano i tuoi vecchi. Io non avevo paura, andavamo insieme al funerale. I tuoi vecchi mi regalavano pane per ringraziarmi, per averti salvato, per averti messo al sicuro. Ti dovevo ammazzare, adesso lo so. Ammazzarti, farti a pezzi, mangiarti. Mentire pure un po', magari. Dire che il tuo corpo non lo si ritrovava perché l'avevano divorato i cani e che io avevo visto tutto, ti avevo visto seduto vicino a un fiume, un branco di cani arrivare di corsa, trascinarti per terra, divorarti e che eri morto così, scomparso. Questo dovevo fare, ucciderti, mangiarti, mentire, accusare i cani. E poi? Solo poi. Quando per averti mangiato i tuoi occhi cominciavano a prendere il posto dei miei, quando per averti mangiato mi veniva la tua voce, il tuo modo di camminare, quando un giorno saresti riemerso da me, allora, solo allora, confessare e dire la verità. Per salvarti questo dovevo fare. Ti avrebbero sempre ricordato come un figlio, come il figlio bello, perduto perché troppo bello. Ti avrebbero portato i fiori ogni giorno, avrebbero pianto per te. Sono morti, tuoi sono morti. Questo non lo dovevano fare. Morire, lasciarti così. Che in fin dei conti tutto lo hai fatto, o meglio, non l'hai fatto per loro, per causa loro. Quando quel giorno, quel pomeriggio, sono entrati, quando ci hanno visto, occhi in mezzo alla stanza, e sono usciti di corsa e tu dietro, e mi hai guardato e mi hai abbandonato e non hai detto niente, sei corso via, dietro a loro che adesso sono morti, spero. Che ti hanno detto loro dopo? Che ti hanno detto? Che era meglio che morivi, che era meglio che morivano, che non era vero. E tu hai giurato. Lo so, lo vedo. Sta scritto nel tuo grasso, lo so, lo vedo. E ti hanno detto tutto per ucciderti, per divorarti. E tu volevi andare via. Non lo so, dico, chiedo. Volevi andare via. Volevi andare via. Io volevo andare via, me ne sono andato. Loro mi hanno guardato. I miei mi hanno guardato. Qualcuno gli aveva detto, qualcuno gli aveva raccontato. In silenzio i miei mi hanno guardato. E io pure ho parlato, ho detto, me ne vado, ho finito, me ne vado, va bene. Va bene, hanno detto loro. E erano le loro mani che gridavano. E la terra tutta che lavoravano ogni giorno gridavano e capivano. Lo sai, capivano loro, lei soprattutto, che un giorno come un grido, con un grido, mi ha dettato al mondo, ha capito, hanno capito. E con le mani strette sulle gambe... E con le lacrime trattenute, col silenzio, hanno capito. E io me ne sono andato e di loro mi ricordo le mani, gli occhi asciutti, un sorriso. E poi, quei maglioni il primo inverno. E poi aspettarli alla stazione della città dove vivo, aspettarli come se erano loro figli miei. E i regali e il dolore che spariva con l'estate. Con gli anni e poi sono morti e hanno capito. I tuoi invece hanno capito, i tuoi hanno capito che dici, hanno capito, sono morti, o te l'hanno messo loro addosso, quel grasso, quella tana, te l'hanno messo loro addosso. Lo sai, io ti ho aspettato. Non tanto, a dire il vero, però ho guardato per strada per un tempo. È naturale, no? È naturale, è giusto. Io guardavo dietro gli angoli e certe volte uno, girato di spalle, eri tu, ero sicuro. Poi no. Ti ho aspettato, io ho capito. Senza dirmelo a voce alta e non per troppo tempo, no, sinceramente. Certe volte nelle strade buie, in casa con la luce... Mi immaginavo che c'eri tu. Trasformavo un'altra volta in Dio chi mi stava sotto, dentro, in bocca. Solo certe volte però, manco per troppo tempo. Giusto il tempo che ci vuole, che ci sta mettendo adesso questo caffè a cadere dal tavolo. A sporcarmi le scarpe bianche nuove, a far girare lenta la testa ai due giocatori, a lasciarti a te immobile, muto grasso voltato, stupido, grasso e stupido, dietro al bancone a sfregare con le tue orecchie tristi, il tavolo è per terra, sono calmo dentro, giuro, calmo. Esco, ti guardo dal vetro, mentre mi guardano i due giocatori. E adesso? Scappo. No, scappare no, bisogna parlare le parole giuste. Non scappo io, no, resto qui davanti al vetro, non dico niente. Non me ne frega un cazzo di vedere il centro, non me ne frega un cazzo di vedere negozi aperti chiusi. Morire dovevi. Un colpo in testa, una malattia, una macchina coi fari spenti, un caso, morire dovevi. Farmi questo favore, farlo a tutti, come dovevi farlo a 15 anni ai tuoi. Dovevi morire, sparire, portarti nella testa le tue orecchie tristi. Sono calmo dentro, giuro, calmo, calmo. Mentre tu sfreghi, sfreghi, calmo. Mentre quei due mi guardano, calmo. Mentre dal vetro non sento niente di quello che pensi, di quello che senti, come non l'ho sentito mai, calmo. Mentre le tue spalle mute mi dicono l'unica cosa che non voglio sentire, e non lo so se è una pietra, questo è solo col pugno che cerco di demolire il vetro, il bar, il palazzo, il mondo. Però dentro sono calmo, giuro, calmo. Calmo. Mentre le tue orecchie tristi, le tue pezze, i tuoi giocatori, la mia pietra o il mio pugno e i colpi mi dicono che siamo uguali io e te. Che non è servito a niente andare via, cercare e ricominciare. Che non è servito a niente essere. Che non è servito i maglioni d'inverno, le attese, uguali. Questo mi dicono, mi urlano le tue orecchie tristi, soli, uguali, soli. Io quando passo dietro al giornalaio, se sto con uno, tu a sfregare, zitto. Io stanza, cucina e nessuno quasi mai. Tu zitto, che non conti manco più gli anni. Soli, uguali, uguali. Io e te, inutili, perduti, uguali. Tu muto col tuo grasso, io muto con la mia luce elettrica. 12 ore al giorno tutti e due, intorno niente e dentro niente, uguali, capito? Uguali e inutili, e tu non sei più inutile di me, che ho fatto tutto per dimenticare, tutto per essere, essere, essere. E il vetro cede come un pianto. Dovevi morire. Eppure dentro sono calmo, giuro calmo. Appena avrò finito di demolire il vetro, il bar e il mondo, tornerò a casa. Piano, e mi dimenticherò di te, di questo caffè che è merda, di questo sabato, di questo paese. Ti dimenticherò, pure se non sei morto, mi dimenticherò di te. Io ti odio, mentre sento quattro scarpe avvicinarsi, io ti odio, per la verità che mi hai detto senza saperla. Per il grasso che ti sei messo addosso come un trattato contro di me, su di me. Io ti odio. Eppure dentro sono calmo. Calmo, giuro. Mentre quattro braccia prendono le mie. E tu diventi piccolo, piano. E le mie scarpe strusciano sulla strada. E tu diventi piccolo. Piccolo. Piccolo, piccolo, piccolo! Lo spettacolo Primo Amore di Letizia Russo con Laura Nardi. Lo spettacolo Vita, Morte e Miracoli del 1799 di e con Alfonso Sessa. Mamma mia! Ma macchinista! Qualcuno risponde, perché avete fermato il treno? Perché il treno è fermo? Che è successo? Come? Ah, c'è una manifestazione! E per che cosa stanno manifestando? Ah, ho capito, ma quello c'è sempre stata, c'è sempre stata, perché fermiamo il treno? Io voglio scendere perché sto troppo in ritardo, va bene? Voglio scendere, fatemi scendere. Signora, spostatevi. Signora, vi dovete spostare? Sì, devo passare. Grazie. Che fatico, eh. Pure per prendere un treno. Oh, mamma mia. E che ci fate sui binari? Perché avete occupato la stazione? Non avete ancora capito che non servono a niente le manifestazioni? Eh? Nessuno risponde. Peggio per voi. Io mi siedo qua, e vi aspetto, e vi guardo. E dal momento che non vi muovete, vi dico che oggi ho preso il treno alla stazione di Portici. Il cielo era sporco di nuvole ed il mare era abbuffato come una panza piena d'aria. Sentivo i binari sotto che mi attraversavano l'anima. L'anima stava sotto. Il treno si ferma nella stazione di Pietrarsa, una piccola città alle porte di Napoli. Pietrarsa è famosa perché a Pietrarsa è conservata la copia della prima locomotiva d'Italia. Mi è venuto di pensare che i napoletani sono stati i primi ad avere il treno ed i primi a perderlo. Mi è venuto di immaginare tutta questa gente che da sotto per la prima volta ha visto questa meravigliosa creatura di ferro con l'anima di vapore che sbuffava come il Vesuvio. Mi è venuto di immaginare che sventolavano fazzoletti sporchi di bianco. Erano contenti, perché mai si potevano immaginare di camminare pure loro in carrozza. La prima carrozza fu messa sul primo binario che si allungava da Portici a Napoli. La prima tratta ferroviaria d'Italia nel 1839. Sì, lo so che magari Federico va detto 1799. Ma adesso ci arrivo andando indietro. Un poco di pazienza. Fermatevi ad ascoltate. Questa è la storia di un treno che doveva partire, che è pure partito, ma che non è mai arrivato. Mi pare di vedere tutta quella gente che da sotto per la prima volta ha visto questa meravigliosa creatura di ferro che sbuffava come il re, che si scocciava di affacciarsi dal finestrino e salutare, che perdeva pazienza perché voleva partire e invece rimaneva fermo là per colpa di tutta quella gente che ingombrava i binari e che gridava: "E vivo il re! O treno! O cavalli fier!" O treno, o cavalli fier. Che belle parole. Le parole sono tutto quello che abbiamo, perciò è importante che siano quelle giuste. Ma la parola non è mai giusta. La bellezza della parola è che è ingiusta, insufficiente, incompleta, inconsistente, eppure così presente, perché tiene una musica, un pensiero, una voce che oramai non ci sta più. Quella gente sui binari non ci sta più, ma ogni tanto ricompare, perché queste cose a Napoli succedono spesso. Ogni tanto una ribellione, una rivolta di popolo che poi passa come una banda. Io sono sceso dal treno perché oramai stavo troppo in ritardo e a Napoli ci sono arrivato a piedi. Ma prima di andare mi sono voltato a guardare il mio treno e per come era ridotto pareva proprio quello del 1839. Questa è la storia di un treno che doveva partire, che è pure partito, ma che non è mai arrivato. Napoli, già Neapolis, già Palepoli, già Partenope. Partenope, quella sirena bella e buona con due ciz tante che si arenò nel golfo, si lasciò morire come una balena perché non riuscì ad incantare Ulisse. E partenopei si chiamano i figli di quella sirena. Mo vi racconto di questi figli, mo vi conto che è successo a Napoli prima del treno, prima del 1839, quando si camminava a piedi e l'unico cavallo era quello di Re Ferdinando, che non era i fir, perché cacava e fateva con macchè. 1796, ecco che comincio a camminare indietro. Nel 1796 si racconta di una femmina senza marito, bella come la sirena Partenope, donna assunta, che teneva due figli, Lucio e Salvatore. Erano due fratelli, tale e quale, quasi. Lucio teneva i capelli biondi, gli occhi cristalli, sciolti, sparsi. Salvatore teneva gli occhi neri, neri come due olive di Gaeta, neri come i suoi capelli neri e scombinati come la sua faccia scombinata. Erano due fratelli, due gemelli, tale e quale, quasi. Poi la mamma e i figli sono tutto quanto uguali. Donna Assunta era un femminone, a Donna Assunta ci piaceva fare l'amore. Donna Assunta concepì Salvatore una mattina ambressa ambressa rinda un vic che pareva ancora notte, quando impressionata dalla passione rimanette, diciamo così, sotto a bot da una che chiamavano Nasecana, che poi morì scannato. Di come concepì Lucio invece non si sa ancora buono. Si dice che forse il padre fosse un nobile, un marchese, che si nascondeva sopra la collina di Posillipo e da là pareva che guardava il mondo come dall'Olimpo. E ogni volta che gli occhi di Assunta guardavano sopra, una tenda si scostava e una mappatella e i soldi le arrivavano per sotto la porta. Ma questo è quello che dice la gente, è la voce del popolo. Quindi è la voce di Dio che parlava per la bocca di Don Luigino, un prete della parrocchia di Santa Maria al Purgatorio, che di questa divina provvidenza faceva finta di non sapere niente. Don Luigino imparò a leggere e a scrivere Lucio, lo imparò a leggere e a scrivere addirittura il latino. La prima, la seconda, la terza declinazione e subito dietro a qualche processione, messa in latino e pure cantata. Mamma mia, Carmelo, Don Luigi, e fermamoci, che pure o paterno sei sfastriato, no? La cosa bella di Don Luigino erano i suoi cassetti. Teneva tanti cassetti e ogni cassetto con il doppio fondo, cioè sopra il Vangelo e sotto un altro mondo. Il mondo di sotto erano libri proibiti. Ma che avete capito? Sembra una cosa, pensate. Non, signore, erano libri scritti in un'altra lingua, una lingua viva, illuminante, accattivante. Voltaire, Voltaire, Lucio, se dice Voltaire, lo sai che diceva Voltaire? Diceva: "Le superfluse necessaire, il superfluo è necessario. A parola tiene una musica che si ha da capire. È la musica che ti fa capire la parola, questa esitazione tra suono e senso, tra speranza e disperazione. La disperazione del fratello Salvatore che non riusciva a capire Lucio. Lucio, ma che fai sempre assettata? Ti sei incantata? Ehi, vieni con me a Bascia alla Marina, vieni a vedere quante belle femmine che ci stanno. Vieni. Salvatore non si dava pace. Eh sì, perché il suo fratello Lucio rimaneva pure la notte con la candela appicciata ancora a leggere e a studiare le parole di questa lingua viva, illuminante e accattivante. Je m'appelle, tu t'appelles. Tu t'appelles, il s'appelle. Lucio, Lu, o sai che si dice l'indovico, eh? Si dice che quando parla francese ti sei fatto curioso. Sì, me l'hanno detto. Sempre con sta manella appesa, je m'appelle, tu t'appienne, ma pare proprio tu masino femminile. E mo basta, vieni da cucca che sta candela sa da studà. La candela di Salvatore invece era il sole, l'unica candela che non si consuma mai, anzi d'estate fa luce per un sacco di tempo. E Salvatore passava un sacco di tempo a Bascia la Marina in compagnia di pescatori, scaricatori e pisciaiuoli. Salvatore non poteva capire suo fratello. Salvatore usava una lingua che sembrava un coltello. Era una lingua azzeccosa, druppcosa, cazzimmosa, tufosa. Era la lingua dei lazzaroni. I lazzaroni, ma i lazzaroni erano ragazzi stracciati, straccioni, con volti senza una faccia, oppure se ce l'avevano era fatto di fango immischiato con la sputazza. Il loro gioco preferito era rotolarsi nel fango di Piazza Mercato come i porci, e come i porci erano orgogliosi di sé e non si scordavano mai di ringraziare la faccia per terra il loro re. Salvatore stava sempre a Bascia la Marina, stava sempre sotto il peso di una cassa portata a spalla come la croce. E alla sera, quando la candela del sole si accorciava e le piaghe sulle spalle si aprivano, la carne gridava il suo martirio. Ma ci stava sempre tanta muina a Bascia la Marina, e un giorno arrivò una voce diversa, più familiare per le orecchie di Salvatore. A Bascia la Marina arrivò un nuovo pescatore. A tutte più belle femmine Napoli, o pesce, o pesce. A vederlo barattarono pesce per un'ovase. Era troppo bravo. Ma chi poteva mai essere questo pescatore che riusciva ad incantare tutte le più belle femmine di Napoli? Mai la sua faccia si era vista a Bascia la Marina, eppure era bastato un cenno, una look che subito si era fatta ammuina. Le femmine gli ronzavano insistentemente nelle orecchie come grossi mosconi s'azzeccavano in gol che Salvatore, preso dalla curiosità, si intrufolò tra la folla per vedere chi era quest'uomo da ammirare. «Scusate, facetemi passare, voglio vedere chi è!» Salvatore si era già portato avanti quando con la coda dell'occhio scorse a terra un grosso cefalo che si torceva in agonia. Si buttò a corpo morto sul pesce, ma in quel momento sul pesce stava il piede del pescatore, che adesso stava serio. Lo guardò e gli disse: «Mario, che stai facendo?» Salvatore tentò con timore di alzare la testa. Aveva gli occhi sgranati come quelli del cefalo, il cuore nel petto sbatteva forte come le branchie del cefalo. Tentò di muovere la lingua per dire parola, ma come il cefalo, muto. «Mario, i pisci sto mare appartengono a me. Ogni cosa che si muove è cosa mia, ma da oggi la salvezza è trasuta a casa tua. Se sempre starei appresso a me, mai ti mancherà di mangiare con morre». «Ma chi è stu pazzo? L'avete sentito? Ma chi è? Ma chi è stato?» Il popolo non credeva alle sue orecchie e tutti ridevano. «Ma chi è? Ma Giuritolo, attaccatelo a chi è stato?» Tutti ridevano, ma a un certo punto nessuno rideva più, perché una carrozza tutta roccocò arrivò proprio davanti a quel pescatore con tutto l'esercito spagnolo che faceva la genuflessione. Ah, «Maronna, che figura di merda! Ma perché? Ma perché è essa? Ma è essa chi? Oh Gesù, ma non vire, è essa! Ma chi?» Salvatore non aveva ancora capito. «È un re!» E allora Salvatore Si voltò verso la carrozza, fece qualche passo e, schiacciato dalla folla, si aggrappò al cocchio e con la faccia del re davanti gridò: «Maestà! Ah! Ah!» La carrozza, tirata dai cavalli, scomparve dietro una nuvola di polvere e il povero Salvatore rimase con il culo per terra e con un desiderio a metà. Aveva gridato «Maestà!» anche se gli sarebbe piaciuto dire «Papà!» E Lucio? Che stava combinando Lucio? Beh, per dirvi la verità, Lucio stava sempre attaccato alla pettola, alla tonaca di Don Luigino, che ogni tanto andava a fare visita alla marchesa di San Severo, così, per confessarla. «Marchesa? Marchesa, sono Don Luigino. Facciamo presto. Sì, facciamo presto, presto, presto. Uscite fuori la testa. Sì. Uscite fuori la testa, guardate che se non uscite voi entro io, poi se entro io è peggio. Marchesa! Ah, sto entrando, svergognato, pentitevi dei vostri peccati, andatevi all'inferno!» Questa però era una scusa. Don Luigino andava nella casa della marchesa con la scusa di confessarla, ma in realtà Don Luigino andava in quella casa per via del figlio della marchesa, il marchesino Riccardo. Non pensate male. Don Luigino voleva fare in modo che Lucio conoscesse Riccardo. Voleva a tutti i costi che Lucio pensasse che la vita è come il doppio fondo dei suoi cassetti. «Lucio, tu fai bene a studiare Sant'Agostino, ma secondo me nella vita ti può aiutare anche a capire certe letture che fa il qui presente marchesino, Riccardo. Vabbè, io vi lascio soli, me ne torno in parrocchia. Sempre sia lodato.» Ma chi era Riccardo? Riccardo era un giacobino, uno di quelli che voleva cacciare a tutti i costi la famiglia dei Borbone. Era un bel giovane che subito si infocava. Bastava solamente che sentisse il nome Ferdinando che subito astammava. «Cittadino, come ti chiami?» «Je m'appelle Lucio.» «Bravo Lucio, mettiti questi vestiti che a me non mi vanno più. Ti devi vestire un poco meglio. La camicia va nei pantaloni, bravo, No, non ti dimenticare la coccarda, Blu, bianca e rossa. Questo è il segno che l'uomo è nato libero, ma ovunque in catene. Come ti senti?» Libero.» «Bravo, usciamo.» «E dove andiamo?» «In carrozza.» «Ah, vabbè.» «A cassetta.» «A cassetta. E i cavalli chi li porta?» Io e te, mica tieni la servitù.» «Ah, giusto, giusto, signorino Riccardo, scusate, ma io in carrozza non ci sono mai stato. Tengo un poco di paura. Oh, mamma mia, ma questi non sono cavalli, sembrano tori. Piano piano. Signore, scostatevi che vi fate male. Com'è bello il mondo visto da qua sopra. Guarda, via Toledo, piazza del mercato. Ma quella è la marina. Ma quello è Salvatore, sono Lucio, sto in carrozza, ci vorrei in maroppo. Che bel palazzo, ci fermiamo qua. Ma chi ci abita?» «Una poetessa, donna Eleonora Pimentel. Andiamo!» E Lucio entrò in questo meraviglioso palazzo. Drappi blu, bianchi, rossi, specchi enormi e libri dappertutto. Lucio non credeva ai suoi occhi. Gente che rideva, che fumava, che se la spassava. Donne belle, incipriate e truccate. E Lucio, tra quel profumo e quel fumo, gli girava la capa. Era buffo, ma era bello vederlo contento. «Lucio, Lucio, lo vedi quello? Quello è Domenico Cirillo, l'ex medico del re, che mostra dalla nostra parte. E quell'altro a fianco a lui, quello è Mario Pagano, un eminente giurista. E quell'altro dietro, quello alto, in alto uniforme che mi sembra una statua, quello è Francesco Caracciolo, ex ammiraglio della Marina Reale.» «Ah, Riccardo, l'ex ammiraglio del re, non lo devi nominare, sennò ti faccio una mossa tanto. Scusa, Riccardo, e quella principessa là chi è? Non indicare, sei scostumato, non si indica. Quella non è una principessa, quella è molto di più. Quella lì è donna Leonora Pimentel.» «Donna Leonora!» Ma Lucio però continuava a non capire. Perché la tavola era apparecchiata e nessuno mangiava? A casa sua quando si mangiava non si parlava, e le troppe volte che si parlava era perché non c'era niente da mangiare. Troppe domande aveva da fare, ma rimase in silenzio. Il fuoco nel camino ardeva come i suoi occhi. Quando improvvisamente la fiamma si scrollò per la ventata di notizie fresche portate da un giacobino. «Avete sentito? L'esercito di Napoleone avanza come un bisonte infuriato! Presto anche Napoli sarà liberata! Sono già Civitavecchia!» E tutti si abbracciavano, cantavano, ballavano. E pure Lucio voleva cantare, fumare, ballare. Era buffo, ma era bello vederlo contento. In fondo, che c'era di male a sognare? E alla sera, prima di rincasare, pensò bene di passare in sacristia da Don Luigino. Don Luigi, sono Lucio. Vi ho svegliato. No. Vi volevo soltanto dire che l'esercito di Napoleone avanza come un bisonte infuriato. Presto anche Napoli sarà liberata. Potete aprire i cassetti e gridate pure voi: viva la libertà! Oh, che cazzo a Luca che tenga agenda allora. Zitto! No, scusate, Don Luigi. Vi volevo soltanto dire che se volete, sta tonaca nera che tenete in collo, va, putitela, va. Buonanotte. Lucio andò via e Don Luigino rimase da solo in sacrestia. Quasi lo rincorse e gli disse: «E si maleva come metto?» Don Luigino era sempre più solo in sacrestia quando a un certo punto mise una mano nella tasca della tonaca. Poi aprì un cassetto. Il libro di Voltaire da sotto passò sopra e il rosario che aveva preso dalla tasca da sopra passò sotto. Poi chiuse il cassetto, fece qualche passo e si avvicinò al crocifisso. Il crocifisso lo guardava. «Oh, ma che vuoi? Sotto sotto ci sta sempre un fondo doppio. I mavaca cucà, mo al francese, pensaci tu!» Don Luigino così pregò davanti al crocifisso e andò a dormire. Intanto il tempo passava e il 23 dicembre del 1798 Re Ferdinando starnutisce. Mette il cappotto, fa le valigie, il francese era ormai alle porte. L'unica cosa da fare era scappare. L'unica cosa da fare, come al solito, era andare via. Inutili le commoventi manifestazioni d'affetto di tutto il popolo lazzarone radunato con le barche attorno al vascello reale. I capi lazzari, la schifezza della schifezza, la monnezza della monnezza, Alichino, Calcabrin, Barbariccia e Malacoda tentarono inutilmente di convincere Sua Maestà a restare. Ah, guagliù, basta! Mo facetemi parlare a me, che sono un corri. Dovete sapere che la vita è un fatto complicato, ma per fortuna mia ci state voi che non mi abbandonate. Ritira l'ancora. No, il re vostro se ne va, però resta qua, perché ci restate voi. Spiega la vela, fa presa. Il re, il mio spirito con voi sempre resterà. Spiega la vela, chiamucin, fa presa. Mi raccomando, accerito francese mi scredendo. A Madonna va a compagno, a stringete riendo. Ferdinando, vedendo rimpicciolirsi il maschio angioino, ebbe un sussulto di gioia, perché oramai era in salvo. Salvatore, invece, vedendo rimpicciolirsi la nave reale, ebbe una fitta al cuore e un tremolio nella voce, e anche questa volta la lingua parlò da sola. Papà! Io v'aspetto qua! Il 25 dicembre del 1798 pochi presepi furono esposti a San Gregorio Armeno e tutti con la grotta vuota, perché la Sacra Famiglia era scappata a Palermo. Napoli, 23 gennaio 1799. Ah, finalmente ci siamo arrivati! L'esercito francese con a capo il generale Championnet sbarca o invade Napoli. Oddio, Ogni invasore è un malintenzionato, ma per il generale Championnet, amico fidato di Napoleone, la questione era un poco diversa. Eh sì, perché il generale amava definirsi un arrivante. Era furbo il generale. Eh sì, perché l'arrivante non ha ancora né nome né identità, non è un invasore e nemmeno un occupante. Insomma, quando il generale Championnet arriva a Napoli, non era ancora niente di preciso. Finalmente, je suis Lucio, je suis très content, vous êtes arrivé. Lucio non stava nei panni quando vide il generale Championnet attraccare a Napoli, ma poco distante da lui i capi Lazzari, Alichino, Calcabrin, Barbariccia e Malacuda lo guardavano. Ma quello non è il fratello di Salvatore. Guaiù, mi sbaglio? O quello è proprio il fratello di Salvatore? Guardate come saluta, come è contento. Non si è mai visto un malato che ringrazia la malattia, eh? La notizia che il francese era sbarcato a Napoli aveva fatto il giro di ogni vascio. Dalla sanità al vomero, ogni pietra trasudava l'ansia di una catastrofe imminente. E il generale Championnet costrinse l'arcivescovo a officiare messa nel Duomo per convincere i napoletani che il suo arrivo era una benedizione voluta dal santo patrò. No. Il sangue di San Gennaro si squaglia 2 volte l'anno. Quando non si squaglia, è presagio di disgrazie. E il generale Championnet doveva fare in modo che questo sangue si squagliasse 1/3 volta. E allora da lontano, con la pistola, teneva sotto tiro il povero arcivescovo che cominciò a sudare. Sangue, freddo. Per il popolo lazzarone invece il sangue di San Gennaro sarebbe rimasto un grumo, una pietra fredda e tosta. Per il popolo lazzarone sarebbe stata l'unica prevedibile risposta. «Che bella faccia e culo che tenu stu generale!» gridò Salvatore dalla navata centrale e subito gli fece eco Tommasino Fumanella. «È un sacrilegio! Un ateo giacobino nel nostro Duomo! Sciò! Sciò!» Le prime ad entrare nel Duomo furono le parenti del santo, così chiamate perché da quando è morto martire non si sono persi un miracolo. Concettina, Maculatina, Annunziatina e Giuseppina, in ordine cronologico dalla più piccola alla più grande. Sì, la più piccola teneva 199 anni e chissà se è morta. Tutte vestite di nero presero posto davanti. Quando erano belle. Sì, tenevano le facce delle mummie appena svegliate. E la bocca non era una bocca, sembrava un buco, un portuso, una piaga in suppurazione. Insomma, facevano veramente impressione. Tutto era pronto per la celebrazione, quando ecco arrivare anche l'arcivescovo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ripetiamo insieme. Non sputa in cielo, perché in faccia te torna. Oi, ripetiamo insieme. Poi l'arcivescovo prese l'ampolla, cominciando a biascicare e a baciare la sacra reliquia. Il sangue roteò 3 volte nelle mani dell'arcivescovo, che a guardarlo pareva un sudario, con un occhio all'ampolla e l'altro alla pistola del generale. Il sangue si doveva squagliare, ma l'anima inchiodata, fermo, immobile come un cane di porcellana di Capodimonte, quando vide roteare la prima goccia di sangue. Oh cazzo, ma che ti sei fatto giacobino? E subito il generale francese gridò: «Sei un miracolo!» Concettina, Maculatina, Annunziatina e Giuseppina coprirono il santo di rinfacci e di improperi. «Va, vattenno, santo Gennaro porco! Puh! Puh! Pure tu sei giacobino! Non dovremmo guardarti un faccio!» E Salvatore prese una massa di legno e si mise a rincorrere il generale. «Vieni acqua! Vieni acqua che ti ha già spaccato! Quale miracolo è miracolo? San Gennaro si è confuso, si è sbagliato!» Il povero generale Championnet dovette uscire in fretta per una porta laterale. Nemmeno il sangue squagliato di San Gennaro aveva incantato i lazzaroni. Cominciò subito una guerra, una battaglia, per ogni strada, per ogni vicolo, per ogni rione, i francesi contro i lazzaroni. I primi con baionette e cannoni. I secondi con caccavelle, seggi, botteghe, scopette avrebbero lanciato pure l'anima Lori all'anima di Kiva e Mort. Era una guerra. I capi Lazzari, Alichino, Calcabrina, Barbariccia e Malacoda organizzavano imboscate. Guagliù, fuito, corrido, non mi facete acciappare, accortolate, è fuito. Il sangue cominciò a scorrere come lava, che si quagliava in un grumo freddo ed immondo, e i lazzaroni cominciarono a cadere come le mosche. Ad ogni colpo di baionetta, un lazzaro con la faccia per terra. Guagliù, correte, fuito, non mi facete acciappare! E Salvatore correva forte perché un francese l'aveva puntato. Correva forte e non si accorse che finì in un vicolo cieco con le spalle al muro. Il francese gli si parò davanti. Alzò la baionetta, prese la mira. Salvatore chiuse gli occhi e si pisciò sotto. Il francese stava per premere il grilletto quando improvvisamente si sentì una cosa fredda sotto al collo. Era il coltellaccio di Alichino! Che lo scannò con mano porca! Salvatore, ma che ti sei pisciato sotto? Calcabrina, Barbariccia, venite a vre. Salvatore si è pisciato sotto. Salvatore è passato. Salvatore, lo vedi che c'ho ragione io. Gli amici si vedono nel momento del bisogno. E a proposito di bisogno, il generale Championet proprio non si aspettava questo arrivuoto, questa eroica resistenza. Infatti dalla paura se cacai sotto. Mo pensate che doveva essere la cacata di un generale. Però portava questa mappata con grande eleganza e tracotanza. In fondo era sempre Championet. Alla fine, 10.000 lazzari ammazzati faranno da tappeto all'ingresso trionfale del generale, che camminava con le gambe allargate. Il tappeto, inutile dirlo, lo dovete immaginare rosso. Salvatore riuscì a scampare al massacro. Rotolatosi nel sangue fangoso di Piazza Mercato, si fingeva morto, quando improvvisamente, per puro caso, si trovò davanti la faccia del francese morto scannato. E quella faccia gli parlò. Salvatore, dalla vostra parte si muore. Si muore? Però sei morto tu. Perché parlo? Io parlo. Chi si sogna i morti che parlano un poco è morto purissa. Mentre i cadaveri in piazza del mercato si raffreddavano, i giacobini napoletani si riscaldavano attorno al camino della Pimentelle. C'erano pure Lucio e Riccardo, contenti per la proclamazione della Repubblica Partenopea. Peccato però che il popolo fosse monarchico. Tutti ridevano e cantavano, quando improvvisamente la fiamma nel camino si scrollò per la ventata di notizie gelide portate da un giacobino. Avete sentito che cosa è successo in piazza del mercato? 10.000 lazzari ammazzati, un macello pubblico, ma il generale Championet ha detto che questi lazzaroni sono stati degli eroi. Lucio si ammutolì subito e la Pimentel prese la parola. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Se non avessi pietà per loro, direi che questi lazzaroni sono dei vigliacchi, a stare dietro ad un re che è più vigliacco di loro. A quel punto Lucio però non ce la fece a stare zitto e diruttò come un vulcano. Come vi permettete di parlare di morti che non conoscete? Lucio, stai calmo. Quando crescerai capirai che... Sono già cresciuto, donna Leonor. E adesso scusate. Lucio andò via sbattendo la porta. Una folata di vento spense il fuoco nel camino. E Lucio correva forte, correva a casa, con un solo pensiero in testa. Suo fratello Salvatore. Mamma, sai se Salvatore si è ritirato? Eh? Mi sai dire se è andato in piazza del mercato? Salvatore! Salvatore! Oh! Ma che fu, sto qua! Salvatore si era appena ritirato da Piazza del Mercato. Teneva una faccia sconvolta, ma faceva finta di niente. Lucio era contento di vederlo ancora vivo. Avrebbe voluto abbracciarlo. Ma non poteva dare questa soddisfazione ad un lazzarone. Allora gli disse... Niente. Sei un vigliacco! Intanto, da Palermo, la regina Maria Carolina, moglie di re Ferdinando, non riusciva a pigliare sonno e quando il sonno se la pigliava, si sognava sua sorella Maria Antonietta di Francia e di sua sorella sognava le mani, belle, affusolate, profumate, legate sotto la ghigliottina e con la capa nella cesta. E allora Ferdinando, per curare l'insonnia della moglie, affida al cardinale Fabrizio Ruffo di Calabria la spedizione dei 1799. Una specie di spedizione garibaldina, ma tutta al contrario. Lazzaroni di tutto il regno, unitevi. Morte a lui Giacobbe e viva re Ferdinando, disse il cardinale Ruffo. Il cardinale Ruffo venne a sapere del miracolo del sangue nel Duomo e per sfregio al santo scelse per Napoli un altro patrono, Sant'Antonio da Padova, è il santo della restaurazione. Infatti tutto tornò come prima e tornarono pure i Borboni e, guardata la combinazione, tornarono proprio il 13 giugno del 1799, l'onomastico di Sant'Antonio. Sant'Antonio glorioso, Sant'Antonio miracoloso. Tornarono i Borboni, tornò la restaurazione e tutto tornò uguale, sì. Appena i Borboni tornarono, misero all'opera i migliori falegnami del regno, chi inchiodava, chi segava, chi piallava, e alla fine mai si era visto un'opera più alta e imponente di quella. Piazza del Mercato era diventata una sorta di anfiteatro all'aperto e i lazzaroni si accalcavano, quasi avessero pagato il biglietto, sotto al palcoscenico del patibolo, che pareva un mobile vecchio e tarlato, ma restaurato. I poveri giacobini napoletani morirono da soli perché l'arrivante, il generale Championnet, se ne tornò da dove era arrivato. I posti in prima fila in piazza spettavano i capi Lazzari, Alechino, Calcabrina, Barbariccia e Malacoda. Ma poco distante ci stava pure Salvatore e loro lo guardavano perché si erano accorti che dentro Salvatore qualcosa era cambiato. Infatti, al primo giacobino napoletano impiccato, i suoi compagni ridevano forte. Salvatore rideva poco. Al secondo applaudivano forte. Salvatore applaudiva poco. I suoi compagni ridevano e cantavano. Salvatore stava un poco abbacchiato perché quasi sentiva ancora le parole di quel francese morto scannato. Salvatore poi alzò la testa e tra tutte quelle teste nere vide una capa bionda. Ah, era Lucio. Si guardarono in un modo strano. Sì, non si erano mai guardati così. Forse l'ultima volta che si guardarono così era quando stavano in braccio a mamma Assunta. Non vi so dire come si guardarono. Le parole sono tutto quello che abbiamo. Quando non ci sono, capiamo ciò che siamo. E Lucio non ce la faceva a guardare l'orrendo spettacolo della forca quando alla forca arrivarono Mario Pagano, l'eminente giurista, e Domenico Cirillo, l'ex medico del re. Dopo pochi secondi erano già salami che penzolavano. Restava Francesco Caracciolo. Ma Francesco Caracciolo venne impiccato all'albero della sua stessa nave. E allora restava lei, donna Leonora Pimentel, la poetessa portoghese che sognò per Napoli un'altra strada, finì in un vicolo cieco. Ma prima di andare al patibolo chiede un caffè. Percorre la strada che dalla vigaria porta in piazza del Mercato. 20 agosto 1799. L'arrivuoto di piazza del Mercato. Arrivuoto, che bella parola, pensava Leonora, come a dire arriva il vuoto. Sale i 3 gradini del patibolo e le tocca assistere all'esecuzione dei suoi compagni. Poi le mettono il cappio al collo, ma un attimo prima riesce a dire la sua preghiera, a trovare le parole. Le parole sono tutto quello che abbiamo, perciò è importante che siano quelle giuste. Ma la parola non è mai giusta. La bellezza della parola è che è ingiusta, insufficiente, incompleta, inconsistente, eppure così presente, perché tiene una musica, una pensiera, una voce che oramai non c'è sta più. Forse un giorno gioverà a ricordare tutto questo. La botola si spalancò come il cielo, piovve a scatafunno, il sangue si annacquò, la piazza subito si sfollò. E in quel mare di folla che si ritirava, ci stava pure Don Luigino, vestito da giacobino e con il rosario in mano, che pregava e bestemmiava. Al centro della piazza rimase da solo Salvatore, che guardava la Pimentella. La Pimentella al gancio faceva un semigiro di nostalgia, i suoi occhi fissi di animale appeso in macelleria. Salvatore non ce la faceva a guardare e per puro caso voltò lo sguardo dall'altra parte della piazza, e dall'altra parte della piazza c'era un cavallo pazzo. Era l'arrivante, il generale Championnet, che aveva fatto tardi, i suoi compagni l'avevano lasciato a piedi, correva forte verso la marina. Generale, ma lo cazziata, je ne comprends pas, excuse-moi, generale, gli disse Salvatore. Come faceva quella canzone? Liberté, égalité, fraternité. Sì, sì, io a roba a te e tu a roba a me, Generale, mio fratello Lucio vi segue, vi ama, perché non ha ancora capito che l'uomo non so tutto quanto égalité, tutta la stessa chiavica, la stessa monnezza. Oh, no, state comodo, vi è caduta una medaglia, ve la prendo io. Medaglia al valor militare per la ritirata del generale. E moia te venna. Salvatore era stanco, non ce la faceva nemmeno più a camminare, ma si diresse verso il suo vicolo, verso il suo portone, verso il suo androne. Arrivò quasi davanti la porta di casa, stava per aprirla quando a un certo punto si sentì chiamare. Salvatore! Salvato! Alechino, Calcabrina, Barbariccia e Malacoda. Salvato! E che fai sotto l'acqua? Vieni, ripariamoci sotto a quello portone. Salvato, ma che tieni? Ci hai schifato? Perché non vieni più a mangiare con noi? Ma non fa niente. Noi ti abbiamo portato da mangiare. Tieni, leva il coperchio, su. Che c'è? Non ti piace? Mangia. Se non mangi, il re si piglia collera. Salvatore vomitò più volte, ma alla fine, minacciato, dovette masticarlo, pur sapendo che era il fegato di suo fratello. No, no, non può essere, non può essere. Lucio! Lucio! Lucio, Lucio, senti, ti devo dire una cosa. Fammi contento almeno una volta, Vieni con me a Bascia la Marina, ti faccio vedere una cosa. Alza la testa, vedi? Il fuoco, ci sono i fuochi. Bello, ci sarà una festa. Guarda là, una cascata, tieni mente, com'è bella. Bella come l'occhio tuo, Lucio. Lucio, ma dicimi una cosa, ma di che colore tiene l'occhio? Non l'ho mai capito. Mio fratello si chiama Lucio, perché quando ha luce la trase rindo all'occhio, si fa di mille colori. Ma di che colore tiene l'occhio, Lucio? Lucio, senti, io ho preparato la valigia. Vieni con me, Vieni, vieni appresso a me. E Lucio prende una valigia, la apre e dentro c'era una sorpresa per Salvatore. Salvatore, non guardare, una sorpresa per te. E Lucio dalla valigia prende un pugno di farina e guardando il cielo dice a Salvatore: Salvatore, io ci credo alla risurrezione. L'anima mia, una spiga di grano che piano piano addiventa pane. E la farina volò via insieme con i desideri e lo sguardo di Lucio, che si sdraia a terra e con gli occhi aperti e pieni di lacrime comincia a ridere come un pazzo. Salvatore, Ma quando... E finisce, ma si scema, lasciami stare. Sabato, ma ti ricordi quando mamma ci portava alla festa della Madonna del Carmine, eh? Che tu sparavi le botte e mamma ti diceva: Salvato, quei botte non si sparano. Salvato, quando ti voglio bene, ti voglio bene. Ciao. Lo spettacolo Vita, Morte e Miracoli del 1799 di e con Alfonso Sessa. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alberto Prunetti, direttore artistico della seconda edizione del Festival di Letteratura Working Class al presidio ex GKN a Campi Bisenzio dal 5 al 7 aprile 2024, ben trovato. Grazie, grazie a voi. Raccontiamo un po' com'era nato. L'esperienza nasce da una cosa che si chiama convergenza culturale, cioè un sottoramo del collettivo di fabbrica degli operai GKN in mobilitazione per resistere al tentativo di depredare il territorio di Campi Bisenzio di una struttura produttiva che ha un passato glorioso, un presente tragico, e quindi di resistere alle speculazioni prima di tipo finanziario e poi di tipo immobiliare che volevano portare via questa fabbrica cedendo le macchine e le capacità produttive verso est, lasciando 500 famiglie in disoccupazione sul lastrico, trasformando probabilmente l'impianto in chissà quale, forse un centro commerciale, un parcheggio, chissà. E contro questo tentativo speculativo, gli operai si sono organizzati con un piano industriale di tipo produttivo e i solidali della cultura, tra cui il sottoscritto, hanno provato a inventarsi una cosa che potesse servire. L'idea, la base era quella di alzare l'umore degli operai e delle loro famiglie, quindi uno special letterario con momenti anche performativi di reading e di letture volti a, appunto, a parlare di letteratura alla classe operaia, dalla classe operaia, quindi testi scritti da persone working class per persone working class e probabilmente aperte a chiunque solidale volesse partecipare e godersi questi momenti di riflessione. Andava molto bene. Abbiamo avuto anche delle difficoltà, abbiamo visto che questo nostro festival, così diverso da tutti gli altri, senza sponsor, senza banche che ti finanziano, era un festival fatto non solo per alzare l'umore, ma era un festival dentro il conflitto sociale, dentro la lotta di classe, e abbiamo un po' sentito il puzzo del classismo delle classi dominanti che si sorprendevano per il fatto che degli operai si mettessero a salire su un palco per parlare di letteratura. La letteratura sembra quasi sia appannaggio delle persone di classe privilegiata, e noi pensiamo non sia così, ecco. Come saranno articolate queste tre giornate? Quest'anno, mentre l'anno scorso si guardava alla genealogia, quindi ai filoni che dal passato andavano verso il presente, abbiamo fatto uno sguardo comparativo sul presente, quindi alle geografie della letteratura working class, con autori e autrici che vengono dalla Svezia, dalla Danimarca, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna e dal Cile, e con un focus di accademici, perché non siamo riusciti a pagare viaggio a scrittori operai cinesi, ma diciamo di sinologi e esperti di letteratura proletaria cinese, quindi ci occupiamo anche dell'Estremo Oriente. Quindi uno sguardo comparativo sul presente, sulle tradizioni anche del passato, soprattutto su certi luoghi come la Svezia, che sono un po' il paradiso del teatro working class, di cui si sa pochissimo, ma in realtà ci sono stati due premi Nobel negli anni 70 che erano autori autodidatti, che non avevano una formazione accademica, ma nemmeno scolaresca, libresca. Non devi per forza essere figlio di un professore o di una persona colta per vincere il premio Nobel. E questa è un po' l'idea che ci ha in qualche modo sostenuto, e per questo stiamo cercando di ampliare quest'idea di una letteratura working class che è anche internazionale, che ha rivoli diversi. Da noi, per esempio, in Italia abbiamo avuto in passato negli anni 70 l'esperienza dei poeti operai, abbiamo delle scritture di fabbrica che erano fatte in realtà da letterati progressisti non operai, come la letteratura industriale, e quello che è interessante, ecco, è che ci sono tradizioni diverse, no? La nostra tradizione è molto forte in ambito sindacale, abbiamo avuto anche in ambito speculativo filosofico l'operaismo, che è conosciuto un po' in tutto il mondo, però di letteratura di classe operaia italiana non c'è era tantissimo, se non che ci stiamo un po' rifacendo negli ultimi anni, e il festival è come la collana Working Class che curo con Allegra, è un po' il sintomo di questo nuovo protagonismo. Come sarà cadenzata ogni singola giornata? Su questo ci siamo organizzati in questo modo, panel distinti, più che altro nel pomeriggio, a volte si inizia già alle 12, la sera momenti un pochino più performativi di letture, reading, quando siamo un po' più stanchi, e di giorno la parte più tosta, con autori stranieri c'è l'interpretariato, quindi è anche più difficile e complesso seguire, quindi abbiamo un po' cercato di alternare cose un po' più toste, altre che possono funzionare meglio a braccio. Lo schema è molto semplice, abbiamo raggruppato diversi autori su diverse tematiche di tipo appunto questa volta geografico, e le mettiamo insieme a ragionare con un moderatore, insomma. C'è stata una risposta entusiastica da parte della società civile, ma anche del mondo artistico, immagino, anche per l'autoproduzione di questo festival. Sì, la parte di autoproduzione è semplicemente di persone, da quello abbiamo visto un po' dai profili abbiamo avuto, persone ci davano 20 euro alla volta per permetterci di finanziare le spese di viaggio e di alloggio degli autori e delle autrici invitati, quindi sembra che in realtà si sono fugate in tasca le persone che hanno poi i soldi, no? Quindi tanti contributi di piccoli, di 20 euro. L'anno scorso abbiamo avuto anche invece un paio o tre di grandi donatori che hanno messo più soldi, questo per quanto riguarda la parte appunto produttiva. Poi abbiamo avuto il sostegno quest'anno del mondo dello spettacolo, di attori, anche musicisti, da Elio Germano, che si è beccato delle parole molto scomposte degli attuali proprietari liquidatori dell'azienda, però onore a Elio Germano per le parole che ha detto, e poi sono un senso comune, ma è quello che bisogna trovare il coraggio di dire, no? Nel senso che gli operai fanno paura quando si raccontano, no? Se non ci raccontiamo da noi, ci raccontano gli altri, quando ci raccontano gli altri ci raccontano male, tante volte malissimo, ma io penso che più che raccontarci male neanche ci capiscano, ecco la sensazione, penso che a volte c'è proprio un problema a capire che cosa sia davvero stessi addetto working class, per chi non ha troppa confidenza nel mondo della cultura e magari è abituato più a muoversi in quello del business. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Le pagine social del collettivo di fabbrica GKN, sia su Instagram che su Facebook, dispiace dover usare queste piattaforme capitaliste, ma poi alla fine le usiamo un po' tutti, quindi sia la Editrice Alegre che la SOMS, cioè la Società Operaria di Mutuo Soccorso in Sorgiamo, che l'Arci Toscano, che il collettivo di fabbrica è più importante dei lavoratori ex GKN, sono queste le realtà dalla cui convergenza nasce il festival. Quest'anno mi fa piacere comunque dirlo, anche con un patrocinio del comune di Campi Bosenzio, perché c'è un prequel, si inizia il 5, vero, però c'è un prequel al 4 con lo spettacolo Il Capitale, uno spettacolo scritto da alcuni drammaturghi bolognesi, però alcune parole sotto, assieme davvero con le testimonianze e le parole di alcuni operai e operaie di GKN, che poi partecipano anche loro, vanno sul palco gli operai e le operaie, e lo spettacolo si farà in apertura al festival, in anticipo il prequel il 4 aprile presso il Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio alle ore 21, mentre alle 19 ci sarà la presentazione del libro tratto da lo spettacolo. Quindi l'invito è a venire la sera prenotando, perché i posti sono 400, e poi continuiamo dal 5 direttamente presso il presidio GKN. Seconda edizione del Festival di Letteratura Working Class al presidio ex GKN a Campi Bisenzio dal 5 al 7 aprile 2024 con un prequel il 4. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alberto Prunetti. A presto! Grazie! Con il giornalista Paolo Morando per presentare il suo libro La strage di Bologna, Bellini, Inar, i mandanti e un perdono tradito. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Che libro è questo? Diviso in due parti. La prima parte prettamente giudiziaria, nel senso che do conto soprattutto degli ultimi processi, quelli che hanno riguardato Gilberto Cavallini e Paolo Bellini. Si era ancora al primo grado quando è uscito il libro, quindi l'ergastolo combinato a entrambi in primo grado, sono due procedimenti separati, perché il libro è uscito a gennaio del 2023. Nel frattempo c'è stato anche il processo d'appello per Cavallini, che ha confermato l'ergastolo, mentre il processo d'appello a Bellini è in corso in queste settimane. Quindi è una vicenda giudiziaria ancora apertissima, per Cavallini manca ancora il rito di Cassazione, però appunto i processi Cavallini e Bellini, sono molti anni dopo quelli di 30 anni fa che hanno riguardato Manlio Fioravanti, quello un po' più recente di Cavallini, questi due nuovi procedimenti hanno portato nuovi elementi, soprattutto l'ultimo, il processo cosiddetto Bellini-Mandanti, che hanno consentito di riscrivere in qualche modo la vicenda giudiziaria di Bologna, che è un cantiere aperto, apertissimo appunto per via dei processi ancora in corso, e che da tanti anni era fermo ai primi verdetti che avevano riguardato gli esponenti dei NAR, Mambro, Fioravanti e successivamente Cavallini. molti elementi soprattutto sulla questione mandanti, quindi movente, finanziatori, organizzatori della strage, che io credo meritassero appunto di essere raccontati nel dettaglio. Ho tenuto conto che il processo Bellini, quando è uscito il libro, si era concluso, ma mancavano ancora le motivazioni che sono state depositate solo diversi mesi più tardi. Motivazioni che sia per quanto riguarda Cavallini che per Bellini sono documenti molto ponderosi, 2000 e rotte pagine, quello riguardante Cavallini, 1700 e rotte quelle di Bellini, che sono stracolmi di elementi che non si conoscevano. La seconda parte del libro invece, che è quella a cui fa riferimento un po' il sottotitolo del perdono tradito, è una vicenda che naturalmente sempre attiene alla strage di Bologna, ma in questo caso riguarda più nel dettaglio una vicenda pochissimo nota, che riguarda un epistolario che è intercorso tra una sorella di una vittima della strage e suo marito con Mambro Fioravanti. Io riporto questo epistolario e riporto appunto anche tutte le circostanze connesse che riguardano appunto Mauro Di Vittorio, giovane vittima a Bologna, che a un certo punto venne indicato anche da Mambro Fioravanti come l'ipotetico attentatore della strage. È noto che Mambro Fioravanti hanno sempre, costantemente anche ora, negato la loro responsabilità, invece acclarata dalle sentenze, e hanno indicato appunto Mauro Di Vittorio come un ipotetico attentatore e non più una vittima. Una vicenda vergognosa che ho deciso di raccontare nel dettaglio proprio perché è poco nota. Ecco, volevo chiederti come nasce l'esigenza di questo volume. Appunto, da due elementi. Il primo, le rinnovazioni dibattimentali che sono avvenute nel corso dei processi a Cavallini e Bellini, che appunto erano freschi, soprattutto quello Bellini, ancora mancavano le motivazioni, la sentenza era solo di pochi mesi prima rispetto all'uscita del libro. E questo per quanto riguarda la prima parte, che altrimenti la vicenda giudiziaria di Bologna è lontana nel tempo, perché la strage dell'80, le condanne definitive a Mambro Fioravanti sono del 94-95, 95 la Cassazione, quella a Ciavardini a Cassazione del 2007, quindi un po' di tempo è passato e intanto però i magistrati hanno portato alla luce tanti nuovi elementi, infatti abbiamo due nuove condanne all'ergastolo per quanto non ancora definitive. Questo per quanto riguarda la prima parte. La seconda parte, l'ho detto, è una vicenda che pochi conoscevano, era stata un po' raccontata in due blog, quello di Paolo Persichetti, Insorgenza, e quello di Ugo Maria Tassinari, Fascinazione, però non era mai venuta alla luce sulla grande stampa mainstream. Invece è una vicenda che secondo me meritava di essere raccontata, anche perché è un lato della vicenda della strage di Bologna, se vogliamo, più privato, che però entrava nella carne viva delle persone, perché si parla di una vittima, dei loro familiari, degli assassini, e che hanno cercato in qualche modo di rovesciare su questa vittima la responsabilità della strage. Quali sono le verità processuali finora e che quadro delineano? Abbiamo una prima fase processuale, quella degli anni 90, che ha portato alle condanne definitive di Mambro Fioravanti, quindi esponente dei NAR, successivamente di Ciavallini, che era addirittura minorenne all'epoca della strage, infatti è stato condannato a 30 anni e non all'ergastolo, che era formalmente diciamo di terza posizione, altre organizzazioni di estrema destra dell'epoca, ma in qualche modo intraneo ai NAR. Dal punto di vista definitivo questo si tratta, oltre che le condanne a suo tempo rogate a Licio Gelli e a uomini dello Stato come gli alti ufficiali del Sismi, Belmonte e Musumeci, oltre che Francesco Pazienza, che pure del Sismi era in qualche modo agente, che erano stati condannati per aver depistato le indagini. Queste sono condanne definitive, queste sono verità processuali in qualche modo acclarate definitivamente ormai da tanti anni, ripeto, siamo nel 95 quando risalgono queste sentenze. Questo, ripeto, sono sentenze definitive. Quella di Cavallini, ergastolo, sia in primo che secondo grado, manca ancora un passaggio in Cassazione, probabilmente nel prossimo quest'anno avverrà. Per quanto riguarda Bellini, è in corso il processo d'appello dopo l'ergastolo in primo grado. Le udienze sono ancora in corso, quindi si prevede che entro l'estate dovrebbe esserci sentenza. Che idea ti sei fatto rispetto a questa vicenda? Premetto che io nel 1980 avevo 12 anni e nessuno di noi sa chi ha messo materialmente la bomba. Anche Mambro Fioravanti non è che ce l'ha, non esiste la prova fumante. Vi è però un complesso indiziario, come si dice in questi casi, di indizi plurimi, univoci e convergenti che hanno convinto le corti a condannarli all'ergastolo. Per idem a Ciavallini. Per Bellini la questione è diversa, anzi parliamo prima di Cavallini che era pure un leader dei NAR. La responsabilità di Cavallini in qualche modo scende dalle condanne date a Mambro Fioravanti, perché Cavallini aveva ospitato Mambro Fioravanti e Ciavallini nei giorni precedenti in provincia di Treviso dove abitava. E quindi in qualche modo il suo contributo logistico era già nelle cose. Per Bellini la situazione è diversa. Bellini intanto non era un esponente di Nardo, bensì di Avanguardia Nazionale, altro che l'edizione di estrema destra. Però in questo caso, come noto, è spuntato un filmato amatoriale di un turista svizzero che si trovava alla stazione di Bologna quel giorno, a quell'ora, che ritrae un giovane che è stato individuato come essere appunto Paolo Bellini. E su questo si è molto battuto nel corso del primo processo, e idem sta avvenendo nel corso dell'appello. Quindi in questo caso abbiamo un elemento di prova, perché Bellini è stato indicato come tale, uomo del filmato, dalla stessa ex moglie, quindi c'è un riconoscimento. Quindi qui abbiamo una presenza fisica finora in primo grado accertata. Quindi l'idea che ci si può fare è naturalmente parziale, perché però gli elementi emersi dai processi ci dicono, soprattutto l'ultimo processo Bellini mandante, che la strage è avvenuta perché organizzata, questo ci dice il primo processo a Bellini, perché organizzata e finanziata dalla B2, da Licio Gelli in particolare, con il contributo, oltre che di Umberto Polani, suo braccio destro, la guida della B2, di un ex prefetto, Federico Umberto D'Amato, e di un ex parlamentare del Movimento Sociale. Quindi abbiamo una risposta più articolata rispetto all'eterna questione di Bologna, cioè non tanto chi l'ha compiuta, ma per conto di chi, con quali scopi, con quali fini. Tutto questo è stato dibattuto nel corso del primo processo a Bellini, dove Bellini era l'imputato, non lo erano formalmente Gelli, Ortolani, D'Amato e Tedeschi, morti da tempo. Però l'inchiesta portata avanti dalla Procura Generale nei loro confronti ha portato alla luce numerosi elementi forti di prova, in particolare il documento Bologna, che è una contabile bancaria, diciamo così per semplificare, che attesta una movimentazione di milioni di dollari dell'epoca nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla strage, una contabile di denaro e di conti della disponibilità di Gelli. Quindi questo ha un po' dato risposta alla domanda a cui mai avrebbero dato risposta le prime sentenze, e cioè se vi fosse un livello superiore rispetto a quello degli esecutori individuati, dei terroristi criminali. Lo ripeto, siamo ancora, per quanto riguarda il processo Bellini, a dibattimento in corso per quanto riguarda l'appello, quindi tutto può ancora accadere. Il libro La strage di Bologna, Bellini, Inar, i mandanti e un perdono tradito. Un saluto e un ringraziamento al giornalista Paolo Morando. A presto! Grazie a voi, a presto. Thank you.